stai piangendo addosso. Non aspettare gli anni passare per essere commosso. Avresti tanti rimpianti e scenderesti a patti con chi possa portarti indietro. Perché le fughe di adesso saranno le rughe di poi. Possibile che tu continuamente ti fidi di tutta l'altra gente, ma mai di te. Per giunta proprio non credo che tu non abbia imparato ad essere cambiato, e che cazzo, lo sai, per quello che sia hai sempre da parte ironia. È chiaro che se stai in ginocchio qualsiasi cosa sembra grande troppo, è questione d'occhio. Io non capisco il bisogno di complicare le cose, che già sono come sono, tante spine senza rose. Non dico che tutto è perfetto, ma a volte io qui mi diverto. Attento, servo di ogni tempo, contro ciascuno dei tuoi tormenti bevi ciò che inventi. Ascolta quello che dici e non forzare i sorrisi, perché la bocca si stanca e senza aggiunta alcuna, amico, buona fortuna.